nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 2 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.50 e tramonterà alle 16.33. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Il ciclo delle stagioni legato alla terra e all'agricoltura, ai suoi riti e tradizioni, usanze dal profumo spesso magico, quelle friulane che rischiano in una società sempre meno rurale di diventare folklore o peggio ancora spettacolo. Ne parleremo in apertura di questa prima puntata del 2022, prendendo le mosse dai fuochi della prossima Epifania, per passare poi alle nuove norme europee sul bio e sui fertilizzanti, poche nuove ma alcune importanti. Sommario anche il riconoscimento DOP per le viti resistenti brevettate dall'Università di Udine e nella rubrica del vino la fase dell'illimpidimento del mosto. Nella pagina delle ricette come preparare un corroborante vin brûlé. In chiusura andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante con un contributo di climatologia locale e il proverbio friulano. L'anno nuovo è appena iniziato e ci prepariamo a celebrarlo e illuminarlo alla luce dei fuochi che ci diranno tutto, almeno quei pochi che verranno accesi sull'anno agricolo che farà. Ma sono un punto di arrivo, ci dice Walter Colle, musicologo, antropologo, editore, conoscitore del Friuli, della sua storia e delle sue tradizioni. È un punto di arrivo e un punto di partenza, direi forse anche, perché i fuochi sono caratteristici in tutto il calendario agrario dei rituali di passaggio, perché hanno la doppia funzione, quella di eliminare e quella di purificare l'aria e quindi propiziare il futuro. In questo senso sono collocati proprio nel calendario agrario, soprattutto in vicinanza dei momenti topici del movimento solare, quindi del calendario solare, intorno ai solstizi soprattutto. Anche quest'anno insomma sarà difficile vedere il territorio punteggiato dai pignarui, dalle foghere e dalle seime. Walter Colle, la pratica e la conoscenza delle antiche tradizioni legate all'agricoltura friulana si sta perdendo? C'è da dire che in Friuli la civiltà contadina ha prodotto un calendario ricco di tradizioni, di ritualità, di forme simboliche che si sono trasmesse fino ai nostri giorni con grande ricchezza di dettagli. Il contesto però è completamente cambiato. Molto spesso alcuni di questi rituali, di queste pratiche tradizionali ben radicate per secoli e secoli, se non millenni, nella nostra cultura, diventano spettacolo. C'è un'altra tradizione chiamata a risvegliare la terra dal torpore dell'inverno, è quella dei Blumari a Montefosca di Pulfero. Sì, il carnevale è un rituale fra i più arcaici ed è molto importante perché è sostanzialmente l'antico Capodanno, è la fine del ciclo invernale e l'inizio di quello primaverile. I Blumari poi all'interno di questo contesto rappresentano un aspetto, secondo me, assolutamente particolare e unico. I valori simbolici dell'abito bianco, dei cappelli fioriti, rimandano proprio a questo, in qualche maniera, ad un augurio per la stagione entrante, in cui si incrociano le due stagioni, quella del ciclo dell'anno e la stagione della vita. Rituali di passaggio del mondo agricolo, in primavera e in estate ce ne sono? Allora, nella società contadina le tradizioni si concentrano soprattutto nella fase invernale. Sono assolutamente molto importanti in tutto l'aspetto, in tutto il periodo primaverile, fino al solstizio d'estate, fino alla festa di San Giovanni, che è un trionfo anche lì del fuoco e della luce. E l'estate si chiude con le feste del ringraziamento. A primavera sono assolutamente importanti le scadenze intorno al solstizio. In Carnia, in alcuni punti, si lanciano ancora le cedulis. Sono molto importanti, ad esempio, le tradizioni della Settimana Santa, ed è molto interessante perché proprio nella Settimana Santa si incrocia il calendario solare con quello lunare. Infatti la domenica di Pasqua è la prima domenica dopo il primo plenilunio, dopo l'equinozio di primavera, in un momento calendariale molto importante per la natura e per la cultura agraria. Nella tradizione friulana si inserisce la figura del benandante, chiamato anche ad avere il controllo sui fenomeni atmosferici e quindi sulla resa dei campi. Sì, Bernardante è una proiezione nella cultura popolare di una figura storica che è stata scoperta attraverso i processi di Inquisizione, una figura che si è voluta cancellare, una figura positiva rispetto alle forze del male che nelle quattro tempore, quindi nelle scadenze stagionali, è quella che difende in qualche maniera nella rappresentazione collettiva popolare i raccolti, la cultura, i campi dalle forze del male. Autunno, inverno, il ciclo si chiude, tornano protagonisti i fuochi. È il vero inizio dell'inverno in questa latitudine e longitudine del mondo, non è certamente il 21 dicembre, ma è più o meno la notte dei morti. E quindi dai morti in poi ancora di nuovo la luce, il fuoco a rappresentare la luce, la speranza che le giornate si allunghino, anche la propiziazione con le molte questue e la teoria del dono è un atto propiziatorio che si fa verso il futuro della comunità, cioè verso i bambini. Dopo lunghi dibattiti e una sospensione dovuta al Covid, appena è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sull'agricoltura biologica. Sostituisce completamente il precedente. Ci racconta tutte le novità Cristina Micheloni. Si tratta di aggiornamenti più formali che sostanziali, ma questa migrazione al nuovo quadro era necessaria per permettere le successive evoluzioni e aggiornamenti. Almeno speriamo che sia così, perché un settore dinamico come quello biologico è da un po' che morde il freno e chiede ai legislatori di tenere il passo. Assolutamente non nel senso di allargarne le maglie, ma di considerare le conoscenze che diventano via via disponibili e soprattutto armonizzare le regole del bio con tutte le altre regole che comunque un agricoltore deve rispettare, come quelle sui prodotti della difesa o per i fertilizzanti o per la salute degli animali che alleva. Detto ciò, alcune novità importanti comunque ci sono. La certificazione di gruppo è ora disponibile anche per i piccoli agricoltori europei e non solo per i produttori di caffè, tè e cacao del sud del mondo. Le norme applicative sono piuttosto inadatte al momento, nel senso che restringono la possibilità a micro aziende e richiedono comunque un sistema interno complesso. Però su questo ci si può lavorare ed adattarlo, per esempio, alla nostra realtà montana oppure ai terreni gestiti da chi agricoltore non è. Ancora più interessante è la possibilità di utilizzare, registrare e commercializzare sementi di materiale eterogeneo. È un cambio radicale imposto alla normativa sementiera che offre la possibilità a singoli agricoltori o a gruppi di essi di moltiplicare e selezionare la propria semente di qualunque vegetale, ma le esperienze principali a oggi sono sui cereali come frumento e orzo, sui fagioli e su alcune orticole come il pomodoro, il radicchio e le crucifere, e quindi registrarle nella loro eterogeneità. Insomma, si esce dall'ideotipo della varietà distinta da quelle già figuranti nell'elenco europeo, omogenea e stabile, i cosiddetti criteri DUS, dall'inglese Distinctiveness, Uniformity and Stability, che erano alla base della registrazione europea. Le varietà tradizionali e le popolazioni locali, infatti, non sono mai omogenee, ma mantengono una parte della eterogeneità per potersi evolvere al cambiamento delle condizioni di coltivazioni e climatiche. Questo è un tratto che nel biologico è fondamentale, ma anche per l'agricoltura convenzionale potrebbe essere un grande aiuto. La possibilità infine di indicare la provenienza della materia prima nei prodotti trasformati anche a livello di regione. Quindi, tanto per fare un esempio, se una focaccia contiene almeno il 95% di ingredienti biologici coltivati e allevati in Friuli Venezia Giulia, accanto al logo europeo del bio si potrà riportare la dicitura Agricoltura Friuli Venezia Giulia. Al momento è l'unica etichettatura davvero verificata sulla provenienza delle materie prime. Con buona pace dei sostenitori del chilometro zero dell'ultimo miglio, ovvero di quelli che si accontentano che la preparazione della focaccia, dell'esempio di prima, avvenga in regione, ma non si chiedono da dove provenga la farina, il burro e pure lo zucchero. Roberto Zironi ci parla in questa puntata dell'illimpidimento del mosto, il liquido ottenuto dalla spremitura degli acini d'uva. Nella vinificazione in bianco, il mosto ottenuto dalle sgrondopresse ha una consistenza acquosa, ma contiene anche una porzione solida. I liquidi sono costituiti chiaramente dalla porzione idrosolubile degli acini, mentre i solidi sono composti da porzioni più o meno importanti dei costituenti dell'acino, quali piccioli, pezzini di raspo, semi e residui cellulari della polpa. Poi abbiamo anche dei residui solidi derivanti da residui terrosi, fitofarmaci non solubili e macromolecoli in soluzione colloidale. Queste sostanze nel mosto, in fermentazione, comportano un peggioramento delle caratteristiche organolettiche, con incremento di sapori erbacei, amari e degli aromi pesanti, e un peggioramento della shelf-life del vino bianco, in quanto i composti fenolici sono suscettibili di ossidazione. E quindi uso corrente procedere all'illimpidimento, fino ad un livello inferiore ai 250 NTU, ma comunque non al di sotto dei 50 NTU, perché un livello eccessivo ha effetti potenzialmente negativi sull'avvio e il mantenimento della fermentazione alcolica. Nella pratica enologica, l'impedimento prefermentativo del mosto si può quindi ottenere con metodologie statiche e dinamiche. L'impedimento statico si realizza in serbatoi muniti di sistemi di condizionamento termico, in quanto la fermentazione potrebbe perturbare tutte le procedure di sedimentazione. Vengono inoltre aggiunti degli enzimi che solubilizzano le pectine e facilitano quindi la sedimentazione delle particelle solide. L'impedimento ha come unico svantaggio di essere un'operazione che richiede dei tempi lunghi e che possono, in taluni casi, permettere alle sostanze solide di cedere aromi indesiderati che ritroveremo poi nel mosto finito. I fondi di sedimentazione possono poi essere filtrati per ottenere un mosto con caratteristiche analoghe a quello illimpidito. In alternativa, il mosto può essere illimpidito utilizzando metodi dinamici come la centrifugazione, la filtrazione o la flottazione. In particolare, quest'ultimo processo prevede che con l'aggiunta di gas inerti, poco solubili in acqua, si possa avere un galleggiamento delle particelle solide e quindi una sua separazione scremando, diciamo, dall'alto il serbatoio o estraendo dal basso la frazione liquida. A differenza della sedimentazione, l'impedimento per flottazione si realizza in tempi molto rapidi. Ecco quindi che questo tipo di procedura sta avendo una rapida diffusione in alternativa alla sedimentazione statica, anche perché risulta essere una tecnica più sostenibile. Per la rubrica dell'Università, oggi con Enrico Peterlunger, che all'Ateneo Udinese insegna viticoltura, parliamo di una bella notizia arrivata dall'Europa, ovvero le viti resistenti, brevettate dall'Università di Udine e prodotte qui dai vivai di Rauscedo, sono state riconosciute per le DOC. Qual è l'importanza di questa notizia? Direi che l'importanza di questa notizia è veramente storica, possiamo senza tema di esagerare definirla così. Il 6 dicembre del 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato un regolamento che riguarda molti prodotti alimentari, fra cui anche la vite e la produzione di uva da vino e le varietà resistenti che già da vari decenni si stanno producendo in Europa con vari programmi di miglioramento genetico, fra cui anche quello dell'Università di Udine, dell'Istituto di Genomica Applicata e dei vivai cooperativi di Rauscedo, ha dato origine nel 2015 a queste varietà che sono state registrate al Ministero. Potranno essere utilizzate per i vini a denominazione di origine. E per il futuro quali sono i prossimi passi? Quali i traguardi da raggiungere? Questa cosa qua fa seguito a un movimento di opinione molto molto importante, che diventa sempre più importante, che va verso una maggiore sostenibilità del vigneto. Viene da dire che questa data, 6 dicembre 2021, fa il paio con quella degli anni 60 in cui l'Europa aveva proibito l'utilizzo di varietà ibride resistenti nei vini quella volta si era specificato fino all'ottenimento di nuove varietà resistenti con qualità dell'uva e del vino comparabili con quello della vitis vinifera. Adesso a questo ci siamo arrivati, le ultime varietà selezionate hanno una qualità veramente buona dell'uva e del vino, e l'Europa anche con questo movimento, diciamo, di tutela ambientale, di riduzione dell'impatto della viticoltura sull'ambiente, ha dato spazio a questa coltivazione. Adesso i prossimi passi saranno che gli stati nazionali dovranno recepire questa normativa all'interno dei propri regolamenti nazionali, per cui l'attuale categoria speciale nella quale il Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Agricole italiano ha registrato queste varietà resistenti, questa categoria speciale andrà abolita e le varietà andranno equiparate alle varietà di vitis vinifera. Dopodiché le regioni dovranno autorizzare la coltivazione di queste varietà e a cascata le varie denominazioni di origine, i vari disciplinari DOC dovranno essere adeguati con l'introduzione di queste varietà. Su questo ultimo passo anche i viticoltori dovranno dire la loro, cioè la modifica dei disciplinari DOC passa attraverso un consenso maggioritario che si forma attraverso da parte dei produttori, e anche qui appunto i produttori dovranno far sentire la loro voce per andare in questa direzione. Con Roberto Zottar ci rituffiamo nelle tradizioni della prossima Epifania e in un caldo bicchiere di vin brûlé. Da Santa Lucia, nome che deriva da lux, luce, e che gli scandinavi festeggiano con coroncine di candele accese, si allungano le giornate, tanto che si dice di Santa Lucia fin Nedal, cres il di un pittighial, di Nedal fin a Langnof, cres il di un pas di loaf. Da Langnof fin l'Epifania cres una pisula mincioneria, e a Pasquetta da un'oretta, aggiungono i triestini, ovvero da Santa Lucia fino a Natale il giorno cresce di un piede di gallo, da Natale a Capodanno cresce di un passo di lupo e da Capodanno all'Epifania di una stupidaggine. I riti del periodo sono legati al fuoco, come il Zocn Dalin, il grosso ceppo d'albero stagionato che i contadini accendevano nel fogolare a Natale e che doveva rimanere acceso fino a Capodanno, e se riusciva a mantenersi ardente fino all'Epifania avrebbe portato gran fortuna. Il rito risale forse al concilio di Tours del 567 d.C., che proclamò come festività l'intero periodo di 12 giorni da Natale all'Epifania. Il 5 gennaio è la dodicesima notte, resa anche celebre da Shakespeare. I re magi visitano Gesù, si accendono i pignarui e si mangia la pinza. Un tempo si dava fuoco alle starpaglie e i ragazzi, saltando oltre le fiamme, gridavano «Pan e vin la Luiania talchiadin», ovvero «a pasche tafanie si mangia la Luiania». E per combattere il freddo si beve il vin brûlé, la cui ricetta risale ai romani con il conditum paradoxum di Apicio, un vino caldo con miele, foglie di nardo, zafferano, datteri e pepe. Oggi il pepe è sostituito dalla cannella, ricca di antiossidanti, e uno degli antichi rimedi per combattere raffreddore e influenza. Vin brûlé in francese significa vino bruciato, ma in Francia la bevanda si chiama invece vin chaud, ossia vino caldo, mentre in Inghilterra è mulled wine, in Germania è Glühwein e nei paesi scandinavi Glögg. Un suo antenato medievale è anche l'Hippocras, il vino panacea arricchito con erbe officinali che la leggenda fa risalire al medico greco Ippocrate. Non esiste una singola ricetta di vin brûlé, ma per un'ottima bevanda vi suggerisco di usare solo vino di qualità, meglio se rosso e colposo. Ad un litro aggiungete 100 g di zucchero, scorza di limone e arancia, 2 stecche di cannella, 5 bacche di ginepro, noce moscata, 8 chiodi di garofano, un'anice stellata, qualche fetta di mela e 2 cucchiai di miele. Fate bollire per 5 minuti e fiammeggiate. E per dare una marcia in più, copiando i francesi, aggiungete un goccio di cognac o rum. Non si tratta solo di una bevanda, ma di una tradizione che ogni anno condividiamo davanti ai fuochi epifanici, sempre con grande speranza per l'anno nuovo. Buon anno! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. In questa prima domenica del 2022, oltre ad augurare a tutti che quest'anno ci porti salute, serenità e una prospettiva che debelli il Covid, confrontiamo l'andamento ai prezzi di alcuni prodotti agricoli tra il 2020 e il 2021. Il settore cerealicolo quest'anno è stato dominato da una buona redditività, con una eccellente ripresa dei prezzi, in particolare per la soia, valutata in 59 euro al quintale, con ben 16 euro in più del 2020. Il frumento è aumentato di circa 11 euro, l'orzo di 10. Il mais si è aggirato in circa 9 euro in più dell'anno scorso. È stato valutato che le importazioni si sono ridotte, permettendo così al mercato interno un totale assorbimento dei prodotti nazionali per la produzione di farine e mangimi. Nel comparto del bovino e macello, le quotazioni delle vacche fine carriera di prima qualità hanno avuto un discreto miglioramento, mentre i vitelli da ristallo, in particolare i pezzati rossi, non hanno registrato variazioni sostanziali rispetto agli anni precedenti. Così pure non si sono indebolite le quotazioni per le razze blu belga, frisoni e bruni. In questi ultimi tempi i produttori zootecnici si sono orientati ad allevare incroci da carne come Limousin e altre razze. Anche il mercato suinicolo durante l'anno ha avuto fasi alterne. A fine anno i prezzi dei lattonzoli e dei grassi sono saliti lievemente di pochi centesimi il chilo, mentre quelli nostrani sono rimasti invariati. Il comparto lattiero caseario ha avuto durante l'anno momenti affidabili ed ha confermato la positività del mercato. Per quanto riguarda il formaggio montaggio, si può affermare che l'anno scorso ha consolidato alcuni sensibili miglioramenti avuti nell'anno precedente, sia per quanto riguarda i prezzi che le produzioni. C'è stato da parte dei consumatori un incremento della richiesta, con un trend di giudizi positivi, in particolare per quello sui 90 giorni. Così pure lo stagionato con marchio ha registrato sensibili aumenti delle quotazioni. Il prezzo del latte crudo di vacca alla stalla, di origine del Friuli Venezia Giulia, da 0,36 centesimi del 2020 è passato in questi giorni a 0,39,50 il litro, più premi qualità e IVA. Considerando le spese di gestione delle stalle, il prezzo è ancora insufficiente per compensare l'intenso lavoro che viene fatto dagli imprenditori zootecnici. Infine, la prossima domenica valuteremo l'andamento dei mercati ortofrutticoli, del pesce, foraggi e avicunicoli. Auguri di buon anno a tutti i produttori. E con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Pur con un po' di oscillazioni, la temperatura media del mese di dicembre è rimasta nella media climatica, mentre il 2021 si è chiuso con un aumento contenuto di 0,5 gradi rispetto al clima. Per quanto riguarda la pioggia, nel mese di dicembre ha piovuto su pianure e costa e nevicato in montagna solo nella prima e nella terza decade. Il cumulato totale si è avvicinato alla media solo per la costa, mentre per la pianura abbiamo avuto meno del 60% della pioggia aspettata. Complessivamente, nel 2021 abbiamo avuto tra il 10 e il 25% di pioggia in meno. In questi ultimi giorni la presenza dell'anticiclone sull'Europa ha mantenuto belle giornate in regione. Da qualche giorno si è registrato infatti valori tra i più 10 e i più 15 gradi a quote comprese tra i 1000 e i 1500 metri. La presenza di aria così calda in quota ha accentuato sia il fenomeno dell'inversione termica nelle valli, con temperature che di notte sono sempre scese sotto zero a fondovalle, sia il fenomeno della stabilità atmosferica, che ha favorito l'accumulo di aria umida nei strati bassi. Nei prossimi giorni nebbie e nube faranno ancora da padrone. Domani prenderanno il sopravvento però le nubi basse e su pianure e costa il cielo sarà nuvoloso coperto. Sulle prealpi variabile, con tempo migliore nelle zone interne e in quota, sulle Alpi poco nuvoloso. Martedì il cielo si farà coperto quasi ovunque, con deboli piovigine a est. Da mercoledì cederà l'anticiclone e si apriranno le porte alle correnti atlantiche. Mercoledì giungerà un fronte che potrebbe portare piogge moderate a ovest, abbondanti o intense a est, con neve oltre i 1000 metri, ma fino a fondovalle nel Tarvisiano. Giovedì la depressione si porterà sul sud Italia e il tempo migliorerà temporaneamente sulla nostra regione, fino a domenica, con aria più secca in quota. Come sempre, comunque, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Salneve apifanie, pane, vin e ciox, lasse calflocchi. Ovvero, se nevica il giorno dell'epifania, servono pane, vino, ciocchi da ardere e lasciare che fiocchi. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano, vi augurano buon anno e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.